La vie t'impegne d'un air voulot, la figoga venia, ed era troppo alta, pigliare non la potia, di sotto italianola, lo melice corre. Davo cozza amabili, l'umelici spagnia, essendo sotto d'arvolo, una ramana ferrai, figozza mia certissimo, pi certo di so contentissimo vincere la battaglia, figozza mia certissimo.